che arriverà al dunque, binocoli contro gli oblò. Perditi dentro uno specchio qualunque, ruba il sapone agli hotel. Cerchi lo perdi alle 5 o comunque all'ora del tè. Il mio fantasma si nutre di rogne, perciò chiede sempre perché. Non ho mai sentito di avere una casa e per questo non mi mancherà mai. Posso perdere quel che non ho. C'era qualcosa e non c'è. Un certo punto è arrivato puntuale, passavano un video di Beck. Riempi il bicchiere di sale marino e mettilo a fianco al caffè. Cercare nespole, odore di pino, piovono pigne di stress. Non ho mai sentito di avere una casa e per questo non mi mancherà mai. Posso perdere quel che non ho. Anzi, l'unica cosa che non prendo quando sono via da casa è le minestre. Io le minestre non le prendo. No, anche perché proprio i pasticci, quelle cose lì, ce le faccio io a casa. Ma i secondi li prendo. Buoni, buoni, buoni secondi.